kiša, kiša diša ga. E si langa pa, si langa pa, zaja ga su čera. Šuma, šuma, canda. Gente, ma che succede che sta gente non mi va aiutare, gente niente.